Gesù nel suo messaggio parlava di rispetto ed equilibrio, includendo anche tutta la natura. Invece il futuro della nostra vita, guidato quasi sempre dalla distruzione, sarà solo un mucchio di macerie. Vogliamo pace, vogliamo pace, vogliamo costruire un mondo nuovo, un mondo senza guerre né violenze, basato sul rispetto e il perdono. Ognuno è chiamato in primo luogo a dare una risposta personale con la generosità di chi conosce Dio. Vogliamo